5. Addio. Cosa ho fatto per essere sottoposta a questa maledizione? Perché ti sei allontanato da me, Dio? Non neghi il sole alle piante inerti, la rugiada alle impercettibili erbe dei campi. Dagli agli stami di un fiore il potere di amare e alla stupida madrepora le sensazioni di felicità? E io che pure sono una creatura delle tue mani, io che hai dotato di un'apparente ricchezza mentale, mi hai tolto tutto, mi hai trattata peggio dei tuoi angeli tonanti, perché loro almeno hanno ancora il potere di odiare e di bestemmiare, io non ce l'ho. Mi hai trattata peggio del fango del torrente e della ghiaia della strada, perché loro sono calpestati ma non se ne accorgono. Sento ciò che sono e non posso mordere il piede che mi opprime né sollevare la dannazione che mi pesa come una montagna addosso. Perché mi hai trattata così, potere sconosciuto la cui mano di ferro sento stendersi su di me? Perché mi hai fatta donna se volevi trasformarmi in pietra poco dopo e lasciarmi inutile al di fuori della vita comune? È per elevarmi al di sopra di tutti o per abbassarmi al di sotto che mi hai fatta così, oh mio Dio? Se è un destino di predilezione, fa che sia dolce per me e che lo sopporti senza soffrire. Se è una vita di punizione, perché me l'hai inflitta? Ahimè, ero colpevole prima di nascere, già prima. Che cos'è quest'anima che mi hai dato? È questa la cosiddetta anima del poeta? Più mobile della luce, più errante del vento. Sempre ansiosa, sempre preoccupata, sempre ansimante, sempre alla ricerca fuori di sé del nutrimento della sua durata, ed esaurisce tutto prima ancora di averlo assaggiato. Oh vita, oh tormento, aspirare a tutto e non afferrare nulla, capire tutto e non possedere nulla, arrivare allo scetticismo del cuore come Faust allo scetticismo della mente. Un destino più sfortunato di quello di Faust, che conserva nel suo petto il tesoro di passioni giovani e ardenti che hanno fumato in silenzio sotto la polvere dei libri e hanno dormito mentre l'intelligenza vegliava. E quando Faust, stanco di cercare la perfezione e di non trovarla, si ferma, vicino a maledire e a rinnegare Dio, Dio, per punirlo, gli manda l'angelo delle passioni oscure e fatali. Questo angelo si aggrappa a lui, lo riscalda, lo ringiovanisce, lo brucia, lo svia, lo divora. E il vecchio Faust entra nella vita, giovane e vivace, un colpevole, maledetto, ma onnipotente. Era arrivato a non amare più Dio, ma ora ama Margherita. Mio Dio, dammi la maledizione di Faust, perché tu non mi basti, Dio. Non vuoi essere tutto per me, non ti riveli abbastanza perché io possa afferrarti e aggrapparmi esclusivamente a te. Mi attrai, mi lusinghi con un respiro profumato delle tue brezze celesti. Mi sorridi tra due nuvole dorate, mi appari nei miei sogni, mi chiami, mi ecciti senza sosta a spiccare il volo verso di te. Ma hai dimenticato di darmi le ali. A cosa serve avermi dato un'anima per desiderarti? Tu mi sfuggi continuamente. Avvolgi questo bel cielo e questa bella natura in vapori pesanti e oscuri, fai passare sui fiori un vento del sud che li divora, o fai soffiare su di me una brezza che mi gela e mi sconvolge fino al midollo delle ossa. Ci regali giorni nebbiosi e notti senza stelle, sconvolgi il nostro povero universo con tempeste che ci irritano, ci inebriano, ci rendono audaci e scettici nostro malgrado. E se in queste tristi ore cediamo al dubbio, tu risvegli in noi i pungoli del rimorso e poni un rimprovero a tutte le voci della terra e del cielo. Perché? Perché ci hai fatto diventare così? Quale profitto trai dalla nostra sofferenza? Quale gloria aggiungono alla tua gloria la nostra abiezione e il nostro nulla? Questi tormenti sono necessari perché l'essere umano desideri il paradiso? La speranza è un fiore debole e pallido che cresce solo tra le rocce, sotto il soffio delle tempeste. Fiore prezioso, dolce profumo, vieni ad abitare questo cuore arido e devastato. Ah, da tempo Cerchi invano di ringiovanire, le tue radici non possono più attaccarsi alle sue pareti sfacciate, la sua atmosfera gelida ti inaridisce, le tue tempeste, le sue tempeste ti strappano e ti gettano a terra spezzata e inaridita. Oh speranza, non puoi più fiorire per me. Queste canzoni sono dolorose. Questa poesia è crudele, disse Stenio, strappandole l'arpa dalle mani. Strappando l'arpa a Lelia. Tu godi di queste oscure fantasticherie, mi fai a pezzi senza pietà, Lelia. No, questa non è la traduzione di un poeta straniero. Il testo di questa poesia è nel profondo della tua anima, Lelia. Lo conosco bene. Oh, crudele, incurabile. Ascolta questo uccello, canta meglio di te. Canta di sole, di primavera e di amore. Questo piccolo essere è meglio organizzato di te. Che puoi solo cantare di dolore e di dubbio. Sei nel deserto. Ti ho portato in questa valle deserta che i piedi delle mandrie non calpestano mai, che il sandalo del cacciatore non ha contaminato. Ti ho condotto lì, Lelia, attraverso i precipizi. Hai affrontato senza paura tutti i pericoli di questo viaggio. Hai misurato con sguardo calmo i crepacci che attraversano i profondi fianchi del ghiacciaio. Li hai attraversati su una tavola gettata dalle nostre guide e che ha tremato su abissi senza fondo. Hai attraversato le cataratte, leggero e agile come la cicogna bianca che atterra da una pietra all'altra e si addormenta con il collo piegato, il corpo in equilibrio su una delle sue fragili zampe, in mezzo al flusso che fuma e vortica, sopra le voragini che vomitano schiuma in alto. Non hai tremato una volta, Lelia. E io ho tremato tanto. Quante volte mi si è gelato il sangue e il cuore ha smesso di battere quando ti ho visto passare, ti ho vista passare sull'abisso, spensierata, distratta, guardando il cielo e disdegnando di sapere dove mettevi i tuoi stretti piedi. Sei molto coraggiosa e molto forte, Lelia. Quando dici che la tua anima è arrabbiata, stai mentendo. Nessun uomo ha più sicurezza e audacia di te. Cos'è l'audacia? Risponde Lelia. E chi non ce l'ha? Chi ama la vita di questi tempi? Questa noncuranza si chiama coraggio, quando produce un qualche bene, ma quando si limita a smascherare un destino inutile, non è forse semplice inerzia? Inerzia, Stenio. È il male dei nostri cuori. È il grande flagello di questa epoca del mondo. Rimangono solo le cose negative. Siamo coraggiosi perché non siamo più capaci di avere paura. Ahimè, sì, tutto si consuma, anche le debolezze, anche i vizi dell'uomo. Non abbiamo più la forza che ci fa amare la vita con un amore ostinato e vigliacco. Quando c'era ancora energia sulla terra, abbiamo combattuto con astuzia, con prudenza, con calcolo. La vita era una battaglia perpetua, una lotta in cui il più coraggioso si ritirava costantemente di fronte al pericolo, perché il più coraggioso era colui che viveva più a lungo in mezzo ai pericoli e all'odio. Da quando la civiltà ha reso la vita facile e tranquilla per tutti, tutti la trovano monotona e in sapore. Viene esposta per una parola, per uno sguardo, tanto poco vale. È l'indifferenza della vita che ha reso il duello parte delle nostre abitudini. È uno spettacolo fatto per notare l'apatia del secolo, quello di due uomini calmi ed educati che tirano a sorte per vedere chi dei due ucciderà l'altro, senza odio, senza rabbia e senza profitto. Ahimè, Stenio, non siamo più nulla. Non siamo più né buoni né cattivi. Non siamo più nemmeno vigliacchi. Siamo inerti. Hai ragione. E quando guardo la società sono triste come te. Ma ti ho portata qui per fartelo dimenticare, almeno per qualche giorno. Guarda dove siamo. Non è sublime? E riesci a pensare a qualcosa che non sia Dio? Siediti su questo muschio, incontaminato dai passi dell'uomo, e vedrai il deserto dispiegare le sue grandi profondità ai tuoi piedi. Hai mai contemplato qualcosa di più selvaggio e allo stesso tempo più animato? Vedi quanto vigore c'è in questa vegetazione libera e vagante, quanto movimento in queste foreste che il vento curva e ondula, in questi stormi di aquile che si librano incessantemente intorno alle cime nebbiose e che passano in cerchi mobili come grandi anelli neri sul foglio bianco e moiré del ghiacciaio. Riesci a sentire il rumore che sale e scende da tutte le parti, i torrenti che piangono e singhiozzano come anime infelici, i cervi che bramiscono con voce lamentosa e appassionata, la brezza che canta e ride nell'erica, gli avvoltoi che urlano come donne spaventate e quegli altri rumori strani, misteriosi, non detti, che rimbombano cupi nelle montagne, quei ghiacci colossali che si spaccano nel cuore dei blocchi, quelle nevi che si sgretolano e portano via la sabbia, queste grandi radici di alberi che lottano incessantemente con le viscere della terra e lavorano per sollevare la roccia e spaccare lo scisto. Queste voci sconosciute, questi vaghi sospiri che la terra, sempre in preda alle doglie del parto, esala, qui attraverso i suoi fianchi semiaperti. Non trovi tutto questo più splendido, più armonioso della chiesa e del teatro? È vero che tutto questo è bello, Stenio, ed è qui che bisogna venire per vedere ciò che la terra possiede ancora di giovane e vigoroso, povera terra. Anche lei sta scomparendo. E cosa stai dicendo, Lelia? Pensi che la terra e il cielo siano colpevoli del nostro decadimento morale? Sognatrice insolente, accusi anche loro? Sì, li biasimo, rispose Lelia. O piuttosto biasimo la grande legge del tempo che vuole che tutto si esaurisca e finisca. Non vedi che il diluvio dei secoli ci porta via tutti insieme, uomini e mondi, per inghiottirci nell'eternità come foglie secche che fuggono verso il precipizio, portate via dall'acqua del torrente. Ahimè, non lasceremo nemmeno queste fragili spoglie, non galleggeremo nemmeno come queste erbe appassite che galleggiano tristi e pendenti, come i capelli di una donna annegata. La dissoluzione sarà passata sui cadaveri degli imperi. I muti detriti dell'umanità non saranno più che i granelli di sabbia del mare. Dio piegherà l'universo come un abito logoro gettato al vento, come un cappotto tolto perché non più desiderato. Allora solo Dio sarà. Allora forse la sua gloria e il suo potere esploderanno senza veli, ma chi li vedrà? Nasceranno nuove razze sulla nostra polvere per vedere o indovinare colui o colei che crea e distrugge. Il mondo scomparirà, lo so, disse Stenio, ma ci vorranno così tanti secoli per distruggerlo che il numero dei secoli è incalcolabile per la mente umana. No, no, non siamo ancora in punto di morte. Questo pensiero ha fatto breccia nell'animo irritato di alcuni scettici come te, ma io sento che il mondo è giovane. Il mio cuore e la mia ragione mi dicono che non ha nemmeno raggiunto la metà della sua vita, la forza della sua età, il mondo sta ancora progredendo, ha tanto da imparare. Senza dubbio, rispose ironicamente Lelia, non ha ancora trovato il segreto per resuscitare i morti e rendere immortali vivi, ma farà queste grandi scoperte e allora il mondo non finirà. L'uomo sarà più forte di Dio e sussisterà senza l'aiuto di nessun altro elemento che non sia la sua intelligenza. Lelia, tu sei sempre provocatoria, ma ascoltami. Non pensi che gli esseri umani siano migliori oggi di ieri e che quindi non credo. Ma cosa importa? Non siamo d'accordo sull'età del mondo. Beh, se lo sapessimo esattamente, non saremmo più avanti. Non conosciamo i segreti del suo organismo. Non sappiamo quanto a lungo possa e debba vivere un mondo così costituito, ma sento nel mio cuore che stiamo camminando verso la luce e la vita. La speranza brilla nel nostro cielo. Vedi quanto è bello il sole, come sorride rubicondo e generoso alle montagne che si gonfiano delle sue carezze e arrossiscono d'amore come timide fanciulle. Non è con la logica del ragionamento che si può dimostrare l'esistenza del divino. Crediamo nel divino perché un istinto celeste lo rivela. Allo stesso modo non si può misurare l'eternità con il compasso delle scienze esatte, ma si sente nell'anima ciò che il mondo morale possiede di linfa e freschezza, così come si sente nell'essere fisico ciò che l'aria contiene di principi tonici e rinvigorenti. Che cos'è questo? Respiri questa brezza aromatica di montagna senza che penetri nei tuoi pori e rafforzi le tue fibre. Bevi quest'acqua limpida e ghiacciata che ha il sapore della menta e del timo selvatico senza sentirne il sapore salutare. Non ti senti ringiovanita e rinfrescata in quest'aria vivace e sottile tra questi fiori così belli che sembrano così orgogliosi di non dovere nulla alle cure umane? Girati. E guarda quei folti cespugli di rododendro, come sono freschi e puri quei ciuffi di fiori di lillà, come si girano verso il cielo per guardare l'azzurro, per raccogliere la rugiada. Questi fiori sono belli come te, Lelia, incolti e selvaggi come te. Non riesci a concepire la passione che si ha per questi fiori? Lelia sorrise e rimase sognante a lungo con gli occhi fissi sulla valle deserta. Senza dubbio dovremmo vivere qui, disse infine, per preservare il poco che ci rimane nel cuore. Ma non vivremo qui per 3 giorni senza far appassire questa vegetazione e contaminare quest'aria. L'essere umano va sempre a sventrare la sua nutrice, esaurendo il suolo che lo ha prodotto. Vuole sempre aggiustare la natura e rifare l'opera della natura. Non resteremmo qui 3 giorni. Ti dico, senza voler trasportare le rocce della montagna nel fondo della valle e senza voler coltivare il giunco delle umide profondità sull'arida cima delle montagne. Questo lo chiameresti giardino. Se fossi venuto qui 50 anni fa, ci avresti messo una statua e una culla scolpita. Sempre a prendere in giro, Lelia. Si può ridere e scolpire in presenza di questa scena sublime, si può? Senza di te mi sarei inchinato davanti all'autore o all'autrice di tutto questo, ma tu, mio demone, non hai voluto. Devo sentirti negare tutto, anche la bellezza della natura. No, non la nego. Quale cosa mi hai mai sentito negare? Quale convinzione mi ha reso insensibile a ciò che è poetico o grande? Ma il potere di ingannarmi, chi me lo darà? Ahimè, perché il divino si è compiaciuto di mettere una tale sproporzione tra le illusioni dell'essere umano e la realtà. Perché dobbiamo sempre soffrire di un desiderio di benessere che si rivela sotto forma di bellezza e aleggia in tutti i nostri sogni senza mai atterrare a terra. Non è solo la nostra anima a soffrire dell'assenza della divinità, è tutto il nostro essere, la nostra vista, la nostra carne, a soffrire dell'indifferenza o del rigore del cielo. Dimmi, in quale clima della terra l'essere umano ignora le eccessive sensazioni di freddo e di caldo? Quale valle non è bagnata in inverno? Dove sono le montagne la cui erba non è appassita e sradicata dal vento? In Oriente la specie enervata vegeta e langue, sempre sdraiata, sempre inerte. Le donne appassiscono all'ombra degli harem perché il sole le brucerebbe, e poi un vento secco e corrosivo arriva dal mare e porta a questa razza indolente una specie di vertigine che fa nascere crimini o eroismi sconosciuti ai nostri popoli da sotto il sole. Allora questi uomini si inebriano di attività, esalano in voci feroci, in piaceri sanguinosi, in sfrenata dissolutezza la forza concentrata che dormiva in loro, finché, esausti di sofferenza e di fatica, si accasciano sui loro divani, stupidi tra tutti gli uomini. Eppure, questi sono i popoli più temperati, più energici, più felici nel riposo, più violenti nell'azione. Guarda, quelli delle zone torride, per loro il sole è davvero generoso. Le piante sono gigantesche, la terra è prodiga di frutti e profumi e spettacoli. C'è la vanità del lusso nei colori e nelle forme. Uccelli e insetti brillano di gioielli. I fiori esalano odori inebrianti. Gli alberi stessi nascondono profumi squisiti nel tessuto legnoso della loro corteccia. Le notti sono limpide come le nostre giornate autunnali. Le stelle sono 4 volte più grandi che qua. Tutto è bello, tutto è ricco. L'essere umano, ancora rude e ingenuo, non è consapevole di alcuni dei mali che abbiamo inventato. Pensi che sia felice? No. Branchi di animali orrendi e feroci gli fanno la guerra. La tigre ruggisce intorno alla sua casa. Il serpente, quel mostro freddo e viscido di cui l'uomo ha più orrore di qualsiasi altro nemico, si insinua nella culla del suo bambino. Poi arriva la tempesta, quella grande convulsione di una natura robusta che salta come un toro infuriato, che si squarcia come un leone ferito. L'essere umano deve fuggire o perire. Il vento, i fulmini, i torrenti straripanti sconvolgono e portano via la sua capanna, il suo campo e le sue greggi. Ogni sera non sa se l'indomani avrà una patria. Questa patria sarebbe stata troppo bella. E Dio non vuole lasciargliela. Ogni anno deve cercarne una nuova. La vista di un uomo felice non è gradita al Signore. Oh mio Dio! Forse anche tu soffri, forse ti annoi nella tua gloria visto che ci fai tanto male. Bene, questi figli del sole che nei nostri sogni poetici invidiamo come i privilegiati della terra, senza dubbio a volte si domandano se esista una terra amata dal cielo che non sia attraversata da lave incandescenti, che non sia spazzata via da venti distruttivi, una terra che si risveglia al mattino unita, calma e calda come il giorno prima. Si chiedono se Dio nella sua ira abbia piazzato ovunque pantere assetate di sangue e rettili orrendi. Forse questi uomini semplici sognano il loro paradiso terrestre alle nostre latitudini temperate. Forse nei loro sogni vedono la nebbia e il freddo scendere sulle loro fronti abbronzate e oscurare la loro atmosfera infuocata. Quando sogniamo, vediamo il sole rosso e caldo, la pianura scintillante. Il mare infuocato e la sabbia ardente sotto i nostri piedi. Chiamiamo il sole del sud sulle nostre spalle gelate e i popoli del sud riceverebbero in ginocchio le gocce della nostra pioggia sui loro petti ardenti. Così, ovunque l'uomo soffre e mormora, creatura delicata e nervosa, si è fatto invano re del creato, ne è la vittima più sfortunata. È l'unico animale in cui la potenza intellettuale è in rapporto così sproporzionato con quella fisica. Negli esseri che gli chiama animali grossolani domina la forza materiale, l'istinto è solo la molla conservativa dell'esistenza animale. Nell'uomo l'istinto sovrasviluppato brucia e tortura un organismo fragile e gracile, all'impotenza del mollusco e l'appetito della tigre. La miseria e la necessità lo imprigionano in un guscio di tartaruga. L'ambizione e l'ansia spiegano le loro ali d'aquila nel suo cervello. Vorrebbe avere le facoltà combinate di tutte le razze, ma ha solo la facoltà di desiderare invano. Si circonda di bottini. Le viscere della terra gli cedono l'oro e il marmo, i fiori si lasciano schiacciare per essere trasformati in profumi a suo uso, gli uccelli dell'aria lasciano cadere le piume più fini delle loro ali per adornarlo. L'airone e l'edredone cedono la loro corazza lanuginosa per riscaldare le sue membra indolenti e fredde, la lana, la pelliccia, le squame, la seta, l'interiora di questo, i denti di quello, la pelle di quell'altro, il sangue e la vita di tutti loro appartengono all'uomo. La vita dell'uomo è sostenuta solo dalla distruzione, eppure quanto è dolorosa e di breve durata. La cosa più orrenda che pittori e poeti hanno inventato nelle fantasie grottesche della loro immaginazione, e va detto, ciò che più spesso ci appare nell'incubo, è un sabba di cadaveri viventi. Di scheletri di animali emaciati, insanguinati, con errori mostruosi, sovrapposizioni bizzarre, teste di uccelli su tronchi di cavalli, facce di coccodrillo su corpi di cammello. È sempre un'accozzaglia di ossa, un'orgia di paura che sa di carneficina e grida di dolore. Parole di minaccia pronunciate da animali mutilati. Credi che i sogni siano una pura combinazione del caso? Non pensi che al di là delle leggi di associazione e delle abitudini consacrate dell'uomo dalla legge e dal potere possa esistere in lui un rimorso segreto, vago, istintivo, che nessun ordine di idee ricevute è stato disposto a confessare o enunciare e che si rivela nei terrori della superstizione o nelle allucinazioni del sonno, mentre la morale, gli usi e le credenze hanno distrutto alcune realtà della nostra vita morale, l'impronta di esse è rimasta in un angolo del cervello e si risveglia lì quando le altre facoltà intelligenti si addormentano. Esistono molte altre sensazioni intime, di questo tipo. Ci sono ricordi che sembrano provenire da un'altra vita, bambini che vengono alla luce del giorno con dolori che sembrano essere contratti nella tomba, mentre l'uomo forse lascia il freddo della bara per entrare in quello della culla. Chi lo sa? Ah, non siamo forse passati attraverso la morte e il caos? Queste immagini terribili ci seguono in tutti i nostri sogni. Perché questa viva simpatia per le vite cancellate? Perché questo rimpianto e questo amore per esseri che hanno lasciato solo un nome nella storia dell'umanità? Non è forse la memoria che ignora se stessa? A volte mi sembra di aver conosciuto Shakespeare, di aver pianto con Torquato, di aver attraversato il paradiso e l'inferno con Dante. Un nome d'altri tempi risveglia in me emozioni che assomigliano a ricordi. Così come certi profumi di piante esotiche ci ricordano le terre che li hanno prodotti. Allora la nostra immaginazione vaga lì come se li conoscesse, come se i nostri piedi avessero calpestato una volta quella patria sconosciuta che però, crediamo, non ci ha visto né nascere né morire. Che povere creature umane, cosa sappiamo? Sappiamo solo che non possiamo sapere, dice Stenio. Ebbene, è questo che ci divora, Stenio, continua Lelia. È quell'impotenza che un intero universo schiavizzato e mutilato riesce a malapena nascondere sotto il luccichio dei suoi vani trofei.